4F. Ascolta e completa secondo il modello. Che fai oggi? Che fate oggi? A che ora fai i compiti? A che ora fate i compiti? Fai silenzio? Fate silenzio? Faccio una telefonata. Facciamo una telefonata. Faccio una pausa. Facciamo una pausa. Faccio una passeggiata. Facciamo una passeggiata. Loro fanno colazione in albergo. Lei fa colazione al bar. Loro fanno un viaggio in treno. Lei fa un viaggio in moto. Loro fanno silenzio. Lei fa rumore.